L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. E va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ascolta un po' di radio, dici sì, ma che radio ascolto? Dico se ti, che ne so, che ti piace? Dici mi piace la figa, dico allora la zanzara, dici mi piacciono le cazzate, dico allora la zanzara, dice forse sono anche un po' razzista, dico allora la zanzara, dice adoro anche un po' i radicali, dico allora la zanzara, che mi dicono sia Confindustria, dici sì, ma se vuoi insultare qualcuno, dico puoi insultare chi vuoi, soprattutto Parenzo, la zanzara, mi piaci tu. Ma questo è un genio assoluto, un genio totale, un ma genio. Ma è un attore questo. Ma sì, sembra quasi un attore, sì. Lanzarosi, ricordatevi che telefonate a Cruciani e a Parenzo per fare le vostre discussioni con chi avete a che fare. Che ne sanno loro di gente come noi che deve fare a calci per tirare alla fine del mese? Ricordatevelo, Zanzarosi? Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora David, alcuni dementi mi stanno insultando semplicemente perché ho detto di fronte alla proposta fatta un po' per scherzo così del sindaco di Napoli De Magistris di ospitare le Olimpiadi non so sì, di quando, del sì. 2028 a Napoli. Giusto, io ho detto giusto. Mi ma tu hai detto giusto perché dici di sì quasi a tutto tu. Cioè le Olimpiadi no, ovunque si fanno sembra... per te va bene. Sì, quello sicuramente può essere una grande occasione per... Va bene, le solite parole, le grandi occasioni, le cose, certo. Tutte queste cose qua, le solite parole. Sì. Solite parole a vuote. Allora, vuote. Io sono ad Expo, sono andato, ero favorevole, mi sono divertito, mi è piaciuto e dopo vabbè, allora, di fronte al fatto che io ho detto, ragazzi, non si può immaginare, solo lontanamente immaginare di fare le Olimpiadi a Napoli, le Olimpiadi a Napoli, la gente è incazzata, insulti, da parte di presunti cittadini napoletani. Presunti cittadini napoletani. Allora, io penso che a Napoli le Olimpiadi 2028 si possono fare e soprattutto si possono istituire per l'occasione, si possono inaugurare per l'occasione delle nuove discipline, caro Parenzo. Cioè, in occasione delle prossime Olimpiadi a Napoli 2028, si può, il Comitato Olimpico Internazionale dovrebbe approvare il salto della buca, il lancio del sacco di monnezza. Potrebbe essere una grandissima specialità questa qua, eh? C'è una grandissima disciplina, il lancio del sacco di monnezza, lo scippo con l'asta, lo scippo ostacoli invece del centro di c'è anche in altre città, sì, assolutamente, la sfida sfila il Rolex, altra bellissima disciplina, sfila il Rolex, cioè una gara a chi lo sfila nel minor tempo possibile, capito? Anche il tiro del camorrista si potrebbe inventare, ecco, no? Quello si invece del tiro, invece del tiro, quello in cui siamo molto forti. Però noi, questo, no? Questo, come dire, insulta la storia di una città. Che ma no, insulta la storia di una città. Cioè, è una realtà, si potrebbero inventare nuove discipline. Si potrebbe essere... fare a fianco alle Olimpiadi a sì. Napoli, che è una città che si può candidare come tutte le altre, sì, certo. Le Olimpiadi della legalità. cioè sì. dovresti, bisognerebbe affiancare al comico. Senti, amico mio, qualsiasi persona dotata di buon senso, di senno, di cervello, pensa che organizzare le Olimpiadi, a parte in Italia in generale, ma in particolare a Napoli, sia una follia. No, che c'è, dipende come lo fai. Dai, su, ragazzi, non diciamo cose assurde, dai, su, leggiamo quello che accade, poi dici le Olimpiadi qui, Gomorre, cioè, dai, su, basta. Sì, basta. A me archivia, dai, archivia, ma dai. Non è vero, a me invece piacerebbe che fossero, siccome i Grillini sono un partito, un movimento nuovo, sì. mi piacerebbe che la loro sapienza politica, la loro autorità, si cimentasse con una sfida difficile come quella delle Olimpiadi. Vabbè, sai che ti dico, però, che ce la siamo presa con i 5 Stelle in tutti questi giorni, ce la siamo presa, cioè abbiamo un po' preso per il culo questo casino che hanno creato a Roma, no? Cioè dimissioni, controdimissioni, eccetera eccetera. Io vorrei che l'annuncio del no alle Olimpiadi non venisse da Grillo né da Di Battista, dovrebbe venire dal sindaco in persona. Non c'è dubbio. Cioè, altrimenti, cioè, che c'è sta a fare il sindaco? Cioè, sembra il burattino di qualcun altro. Però di fronte all'attacco persino del signor Saviano, quasi quasi passo dalla parte della Raggi. I grillini hanno spinto nel precipizio più profondo anche l'ultima briciola di fiducia che gli italiani avevano nella politica. E che sarà mai esagerato, dai. Vabbè, il governatore del mondo, se abbiamo fatto questa introduzione perché non volevo partire subito col governatore del mondo, amico mio, spettacolare sui 5 Stelle, De Luca. Ma De Luca parla ogni giorno. No, stupendo, stupendo. De Luca da Lira TV, se non sbaglio, no? Lira TV. Andiamo, De Luca e i 5 Stelle, uno spettacolo teatrale meraviglioso. Luigino Di Maio, il Chierichetto. Fico, il Moscio, ovviamente. E l'emergente, Di Battista, detto Dibba, il Gallo Cedrone. Diciamo, ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia, la sua parte in commedia. Senti, senti ancora. Non possiamo rivolgere un saluto al Gallo Cedrone perché è venuto nel suo tour da Centauro, anche in Costiera Amalfitana. Ovviamente è chiaro che questo ha preso a pretesto il referendum per andare a farsi i bagni, andare in giro, no? Si è presentato qui come un centauro, si è tolto il casco, mi dicono aveva la bandana. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! L'Italia dovrebbe essere diretta da questi signori. I poteri forti, senti. Sono oggetto dei 5 Stelle di un attacco dei poteri forti. Gesù, Giuseppe e Maria. I poteri forti. Tutto quello che è avvenuto in questi 2 mesi lo avete deciso voi. Avete nominato il primo assessore al bilancio. Voi, si è dimesso. Il secondo assessore al bilancio, voi, si è dimesso. Il capo di gabinetto, l'avete scelto voi, si è dimesso. L'assessore all'ambiente, Dio l'abbia in gloria, tale Muraro, l'avete scelta voi. In attacco di chi? Vi siete autoattaccati, diciamo. Questa è meravigliosa. Vi siete autoattaccati. È stupendo, dai. Questa cosa è meravigliosa, dai. No, no, una bella sintesi. No, ma senti questa cosa qua, no? Senti questa cosa qua. Si odiano. Senti. Questi tre si odiano. Si baciano, si abbracciano, sono falsi come Giuda. Se vedete qualche foto presa a tradimento, vedete che si guardano come ognuno vorrebbe accoltellare alla schiena l'altro. Falsi come giù, però in pubblico baci e abbracci, che vi possano ammazzare tutti quanti. Beh, questa è un po' pesantina, che vi possano ammazzare tutti quanti. Beh, sì, un po' tosto, diciamo. Che vi possano ammazzare tutti. Effettivamente è vero, tu dici i tre, no? I tre della Maria, no? Cioè, quelli che hanno nominato prima, Di Battista, Fico. Lui dice che naturalmente si è, ma poi in realtà non si sopportano. Sono tre mezze pippe, senti. Che cosa hanno in comune questi tre giovanotti? Che sono tre mezze pippe, che quando si sono candidati con la loro faccia, non 50 anni fa, 3-4 anni fa, sono stati bocciati tutti quanti. De Luca, governatore della Campania, PD, numero uno assoluto. Numero uno assoluto. Ragazzi, quando dico numero uno, non cominciate ad incazzarvi, no? Allora mandate pure un cretino che scrive, allora mandate pure l'audio di Al Capone, tutte queste puttanate. De Luca è il numero uno perché a modo suo sbeffeggia questi qua e a me questa teatralità piace. intanto sono d'accordo, intanto non sono d'accordo. Quando dice che si sono fatti, si sono massacrati da soli, si sono incartati da soli, hanno nominato loro gli assessori che poi si sono dimessi. Ha ragione De Luca. Dai, quali poteri forti? Quali sono sti poteri forti? Ah, ma Toscani ieri ti ha bacchettato a un certo punto. Non si, stamattina ti ha bacchettato, eh? Ai mezzi di. No, no. Stamattina stava. Sì, no, ma senti, ha ceduto, dice non perdiamo tempo, ospiti inutili, senti. Tutta questa fatica di parole, di discussioni, di gente che perde tempo, andare in televisione a raccontare, io per primo io qui a perdere questa ora qui, inutile, perché dopo tutta questa ora qui non si succederà assolutamente niente. Siamo qui tutti a perdere tempo. Siamo tutti a perdere, caro David Parenzo, siamo qui a perdere tempo perché sono amico tuo, mi sei simpatico, ma non serve assolutamente niente quello che ti dico, così come tutti i tuoi ospiti sono assolutamente inutili anche loro. Quando ha finito la sua filippica, qua non va bene, non vanno bene gli ospiti, si annoia. Che filippica? È tutto filippica sbagliato. Cosa? Ma che filippica? Siamo una banda di stupidotti in televisione. Ecco. E iniziamo, allora, iniziamo come dire da lì, da dove sta lei. Quindi... Ah, perché non sa andato? Scusa, non ho capito. Viene in televisione e poi dice basta. No, perché lui dopo giustamente mi ha spiegato, ce l'ha detto anche in diretta, dice io devo comunque distruggere, giocare sul fatto che alle volte la televisione, la radio, i media... Parla di cose inutili. Vabbè, fermo là. Altro che il traffico, qua ci serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena. L'erba buena. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago 8-11 settembre. Vi presenta La Zanzara. La mia fidanzata che mi dice basta mo, ascolti sempre la Zanzara, devi cambiare, cambia un po', e io ho cambiato fidanzata. Sgarbi stamattina da Parenzo sui figli, questa è buona, questa è buonissima, sentite. Sgarbi, lo sa meglio di me. Io ho tre figli e non ho tre figli. Forse due sono miei, però. Non lo so, miei. Questo lo rivela lei. Ho tre figli. Non applaudite Cornuto. Su questo. Guai all'applauso. Ho tre figli. Non voglio prendere querele a nome suo, bene, capito? Guarda. A parte che Sgarbi non lo guarda nessuno, eh. Comunque, Movimento 5 Stelle come mafia e la massoneria, senti. Grillo è continuamente in abuso di democrazia e quando manda avanti le loro regolette rispetto a chi può essere assessore o meno in virtù del codice, la Costituzione e le leggi sono più importanti di quel codice. Già un magistrato li ha costretti a riassumere persone cacciate. Quale codice? Non è mica la massoneria, non è mica la mafia. Loro sono esattamente come la mafia, no, che ha regole sue. Il Movimento 5 Stelle come la mafia. Vabbè, ma voleva dire che ha delle regole sue che non hanno niente a che fare con la legalità. Sì, poi l'ha detto con la negazione, quindi non è mica come, quindi insomma, sì, vabbè. Vabbè ragazzi, andiamo in provincia di Ancona, vai Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera, mi hai rovinato la serata. De Luca e Sgarbi, volevo parlare ma non mi chiude il telefono. Manco ha iniziato, che ti devo dire? Non ha nemmeno iniziato e mi rompe i coglioni. Allora ti volevo dai. Dire che applausi per Telesi. Perché l'unico. Vabbè Giuseppe, dai, vai avanti Telese, dai, forza. Allora... Sì, perché è stato l'unico, uno degli unici giornalisti che dice le cose come cioè stanno. Che c'è un attacco poi, da parte dei poteri contro la poi cosa. Il PD. Lui è preoccupato per il bene di Roma, dei romani. Ma se ce l'apri riempiti di merda e di debiti i romani. Vabbè, allora che vuoi dire? Allora il Movimento 5 Stelle dove ha rubato? Dov'è il reato? Che ha rubato? Infatti non si sta parlando di furti o di Di cazzate. No, ma di cazzate, di cosa hanno di fatto cazzate, di mettere? Hanno, hanno scelto gli assessori. Da parte. Moltata da parte. Stanno cercando, ma se forse sarà, sarà, non sarà. Ancora non ha letto manco le carte di quella, della Muraro lì. Come fate a chiacchierare voi? Vabbè, dice, no, il problema cioè, è deputati del PD, 5 Stelle. Ma deputati che dice? Del PD che stanno ancora al Senato con 3 gradi di ma questo è vero, ma non c'entra nulla. Ma non c'entra niente. Nulla. Marcella da Roma, senti, senti. Muraro, l'hanno sollevato Di Maio, Di Battista, Fico, che dite? Marcella da Roma. Vai Marcella. Ciao Cruciasso, Marcella da Roma, sono sempre a e ogni tanto chiamo. Senti, mi sono incazzata per sto fatto da Raggi. E perché ti sei incazzata, Marcella? Perché? E ho visto quanto gli stanno addosso. Ma vuoi capire perché? Perché? Ma vedete che c'ha Raggi gli accordi olimpiadi, se stanno tutti zitti e buoni buoni. Ma quando mai? Dai, non diciamo. Dici te, non diciamo stronzate, dai, ma su. Ma che sta di te, no? Che sta di l'altri. Dai, non diciamo stupidaggini, dai, su. Ma com'è? Le indagati gli trovano solo i crisi. Ma com'è quando ci sono stati altri? Comunque, da queste telefonate. Da queste telefonate appare chiaro, Davide, che c'è un sacco di gente, anche se poi i sondaggi danno un po' in calo i 5 Stelle, che sono convinti che, dice il fatto, esatto, che sono convinti, sono convinti che i 5 Stelle in realtà sono vittime di un attacco da parte ma vedi. Quando mai? Ma dai, non diciamo stronzate. Allora, quando uno ha una fede in un partito, ma questo è apprezzabile, perché io questo mi piace invece, perché quando uno ha una fede in un partito, ha una fede cieca in qualunque cosa, come negli anni, ha ragione Telesi su questo, negli anni 60, qualunque cosa facesse il militante, il dirigente del Partito Comunista Italiano, il militante diceva sì è vero, in Russia si sta meglio, sì è vero, la rivoluzione, sono uguali questi qui, il fideismo, appunto. è uguale, ma va bene. La Lucio, politica. Provincia di Messina, vai Lucio. Ciao Giuseppe. Dimmi. E allora, hai lanciato la campagna della DP nel lavandino. Ma sotto adesso, la lanciato la campagna mi sembra esagerato. Ho detto che c'è un sacco di gente che chiama dicendo che fa la pipì nel lavandino da un sacco di anni, che ha cominciato a farla, eccetera. Io non la faccio perché semplicemente perché è scomodo, devo dire la verità. Cioè, è profondamente scomodo, non capisco la comodità. Cioè, di solito sono anche ad un'altezza piuttosto complicata i lavandini, Davide, no? Anche volendolo fare, no? Giusto? Non lo so, a me sembra una porcheria assoluta. Ma no, ma al di là della porcheria, ma è anche tecnicamente complicato, ma no? È proprio una porcheria, come uno si lava la faccia, però uno è libero di no, dire. No, d'accordo, per dire, carità, però è anche tecnicamente, tu pensaci, no? Tecnicamente è complicato, no? Ma no, ma devi essere un malato di mente solo a pensarci. No, ma se anche uno lo volesse fare, tecnicamente. Ma uno che lo vuol fare, va rinchiuso in ospedale psichiatrico giudiziario. Vabbè, Lucio, che ci vuoi dire? Non ho capito. Non mi interessa la pipì nel lavandino, eccetera. Noi la pipì la facciamo sui rom. Come sui rom? Non ho capito, sui rom. Facciamo la pipì sui rom. Che vuol dire? Come fai a fare la pipì sui rom? Scusa, Lucio. Lucio? Come fai a fare la pipì sui rom? Spiegami. Ti spiego brevemente. Molto brevemente però. Quest'estate mia moglie e mia figlia risalgono dalla spiaggia. Trovano due rom che tentavano di forzare le loro biciclette. E allora? Mia moglie tenta di cacciarli via. E che hanno fatto? Ha pisciato sul rom, che ha fatto? No, queste li hanno minacciate. Vabbè, d'accordo, allora? Dicendo di darle le biciclette. Vabbè, hanno provato a rubare le biciclette a tua moglie e a tua figlia, allora? L'hanno chiamato pure puttana cinese, eccetera, eccetera. Che è cinese, tua moglie? È vietnamita. È vietnamita, vabbè, allora? Allora niente, mia moglie ha preso, mia figlia hanno preso e li hanno stesi a calci. Li hanno massacrati di calci. Cioè, tua moglie e tua figlia, una vietnamita e l'altra, immagino, mista, italo-vietnamita, hanno preso a calci i rom. Sì, li hanno presi a calci e li hanno stesi a terra. Hanno preso a calci, bah, comunque, allora? Là sul posto c'era... E hanno pisciato sopra i rom, che hanno fatto? No. Ma c'era un mio amico che voleva andare in soccorso delle donne, no? Chiaramente non vabbè, allora? Tempo. Lui è arrivato e ha detto di spasciata, venivano a rubare in vincia e non trovarono niente, noi cacatiarono tutta casa. Cioè, ma traduci in italiano, dai! Sono venuti a rubarmi in casa, non hanno trovato niente. Vabbè, che è successo? Che c'entra con la pipì? Lui ha preso spasciato addosso il rom stesa per terra. Vabbè, ma dai, ma tu, Parenzo, ci credi a questo racconto di Lucio dalla provincia di Messina? No, spero che non sia vero, perché è un racconto di cui mi vergogno per lui che ha raccontato questa schifezza. È tutto roba, vero, Lucio? È tutto vero o no? È verissimo. Cioè, sì. la moglie vietnamita e la figlia prendono a ammazzate i rom, arriva un tuo amico e gli pisce addosso. Vabbè, ma ragazzi, ma che è sta roba? Ma è veramente una cosa. Si sentono cose in questa trasmissione che non si sono mai ascoltate, mai. Domenica 11 settembre ritorna protagonista la voce in tutte le sue declinazioni. Voice Anatomy, 14.30, Radio 24. Vi aspetto. Un programma di Pino Insegno. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Questa cosa che le donne non amano la zanzara è una minchiata atomica. Mia moglie ogni volta che saliamo in macchina pretende l'ascolto di un podcast della zanzara, anche se io l'ho già ascoltato, mi costringe a riascoltarlo, ma io lo faccio volentieri perché sono drogato di zanzara. Renzi controlla se puzza di sudore. Sentiamo, sentiamo. Poi vi dico qualcosa sul sudore, eh? Renzi, tu sudi, Parenzo? Beh, poco, molto poco, anche d'estate per fortuna. Ah, poco. Sudi poco, sudi poco. Pochissimo, pochissimo. È una fortuna, non sai quelli che tirano la mano sudata, cioè quelli che sudano fino d'inverno. Io per fortuna sudo pochissimo. Però, per esempio, una donna sudata per me è il top. Cioè io, a me piacciono molto le donne sudate, per esempio. Io preferisco una doccia, però insomma, sai, no, non sto parlando di atto sessuale questa volta. In generale, una donna sudata non ti fa sesso a te, una donna sudata, un po' sudaticcia, anche con un olezzo strano, non particolarmente. Per esempio, la donna tutta profumata a me non piace, cioè le donne profumate che si profumano tanto, eccetera, eccetera. Un po' non le sopporto, cioè no, è meglio l'olezzo, magari anche un po' di puzza, no? La puzza del sudore. Non mi pare, però. No, non ti pare. Renzi è il sudore, sentiamo. Un'ultima domanda. Io sono fradicio. Un'ultima domanda, così poi ti mandiamo a cena. Prima ho letto... Ho detto sono fradicio e tu mi applaudi, e puzzo anche probabilmente, cioè. Perché il lavoro no. E la fatica. Poi ha fatto no, non puzzo. Dove andiamo? Andiamo a... Beh, c'è Carmine, il Karma Quotidiano ha chiamato, Parenzo, ha chiamato Carmine. Buonasera. Vai, Carmine. Buonasera, Giuseppe. Come andiamo? Bentornato. Buonasera. Ben ritrovato, Karma. Beh, come andiamo? Anche voi, Giuseppe. Ci voleva, sì. No? Ci voleva il Karma. Che ci vuoi dire, Karma? Giuseppe, che ti volevo dire? Come hai passato l'estate? Parenzo è interessato, è molto interessato. Ho fatto un tour, sembra austriaco, però non sono che hai andato fatto l'estate? Oltre. Non ho capito, hai fatto un tour di un che? Un tour di Troie in Austria. Un tour di bordelli, sì, praticamente. Fatto il giretto, prima sono andato a Welcome, poi sono andato all'Andiamo. Vabbè, poi questo... volevo andare un altro FKK, non mi ricordo come FKK sono in generale. Era troppo lontano, no, ma mi quello... sono fermato 2 giorni là. No, ma ho capito, ma FKK è il nome che si dà in generale ai bordelli, non è che è un nome di un solo bordello, Carmine. Cioè... No, ci sta, Giuseppe, sei male informato. No, ma ti assicuro. Vabbè, Carmine, hai passato l'estate allora, in questo... Giuseppe, io chiamo perché mi sono rotto la minchia che sto deficiente del Davide, mi chiama e che dice tu apprezzi che però, no? Che tu apprezzi, ce l'ho. Apprezzo di che? No, David, tu lo stimi, no? Ma David, io ti voglio bene, ma stai in base. Tu non sai neanche che faccia ciabbia. No, ti stima, Carmine. Ma io non ho... Che è sto casino, Carmine? Che è sto casino? Personaggi simili, non mi Carmine, interessa. Che è sto casino? Ci sei? Sai neanche telefonare. Karma? Che ha fatto Karma? Richiamiamo Karma, va. Carmine, ci sei o no? Vabbè, niente. Aldo, Roma, vai. Sto qua. Dimmi Aldo, dimmi. Ciao Luciano, senti, te volevo dire, ma sta cosa del che non apprezzi la pisciata nel lavandino. No, ma no, attenzione, io non ho detto questo, non cominciamo adesso la cataratta. Qui passiamo, Parenzo, da quelli che quelli che parlano della Raggi e dicono che siamo degli stronzi, dei pezzi di merda, eccetera, perché attacchiamo i 5 Stelle mentre tutta l'Italia è piena di ladri, indagati del PD, eccetera, e noi stiamo qui a fare le pulci su una stronzata. A quelli che invece parlano delle pisciate nel lavandino, ma che va benissimo, per carità, cioè, va tutto bene, no, però ma quelli che si vantano, ma questa è la Aldo, cosa io non ho detto che non mi piace, ho detto che è tecnicamente è un po' francamente io c'ho il lavandino alto e mi verrebbe difficile, molto più però, facile fare nel bagno come fanno tutti nel water, no? Pure il discorso igienico, no? Ma scusami una cosa, ma mentre tu la fai nel lavandino, ma dopo 2 secondi te lo sei pure sciacquato. No, cioè, vabbè, ma al di là, no? Ma che c'entra adesso questo? Vabbè, quando la fai nel bagno te pulisci con la carta igienica. No, però non Aldo, penso che te fa allora, il la dopo, tecnica no? Della pipì nel lavandino, francamente, non è molto diffusa. Poi sembra di sì dalle telefonate che fate e dai messaggi diffuso, che lasci. È diffuso. Ma perché è più comodo? È molto scomodo. Ma, stai lì. Ma ti no, devi... ma stai in piedi, te giri, stai in piedi, l'altezza è quella, hai fatto. Ma poi pure un'altra cosa, no? Dimmi. Dopo che hai fatto, hai avuto un rapporto, no? Quante volte hai rapporto finito? Di che tipo? Non ho capito. Sessuale, dopo che hai finito, stai là che stai con. C'è il pisello ancora mezzo duro, no? Che te schizza tutto. Quello adesso lasciamo perdere i dettagli, dai. A sa fare nel lavandino quanto è più semplice. Ma è complicato il lavandino, è complicato, io non capisco, è complicato. E poi c'è pure un'ultima cosa, una questione proprio poetica, i colori che si mischiano. Perché tu ovviamente la fai con l'acqua aperta del lavandino, no? Vuoi mettere pure questa cosa? Ma io non so questa gente dove è cresciuta. Aldo, scusami, quanti anni hai tu, Aldo? 31 anni, questo sono contento. È cresciuta della giungla. No, ma io per me è una follia, tecnicamente è una follia. Poi per carità, ma la io sono pure alto 1,85. No, la doccia è più naturale, per esempio, no? Perché stai lì e la fai. Sì, il lavandino è complicato. Settimana, è quello appunto. Una volta a settimana, giusto, buona questo qua. Karma, sei tornato, Karma. Qua Giuseppe, caro dalla linea. Vabbè, allora, amico mio, dai. Allora. Perdonami, io voglio fare un discorso molto basico. Tu, tu stimi David, no? Tu stimi David. Scusate, una cosa molto veloce. Allora, io sono indignato che David ci chiama miserabili. Perché ci chiami miserabili? Tu poi non sei coerente, tu ci hai avuto già 2 mogli, ha trombato donne diverse, fa figlia a destra e a sinistra. Ma che c'entra questo? Quello che ho fatto io, ma che le importa a lei? Ma io siamo miserabili. Ma che quindi... lei? Ma che mi date lei? Un po' deficiente. Io non voglio avere nessun tipo di rapporto con personaggi simili. Ma è Karma! Davide, ascoltami, lei non sei coerente, è un miserabile perché si vanta di andare a prostituta. Mi vanto? Ma che mica mi vanto? Ma è legale, io vado lì, mi fanno scontrino. Sfrutta le donne, ma e poi secondo me neanche nessuna etica e nessuna barriera si vanta e lo dice pure anche in diretta di fronte a milioni di persone senza avere più nessuna neanche dignità di se stesso. Ma perché dignità di se stesso? Ti sta dicendo Davide, tu non gabbi, non dici non lavandino, non drombe, tu praticamente non fai niente. Ma lei non sa quello che faccio io, ma io lo dico a lei, ma non è che mi metto a parlare. Ma che lei, Davide, comunque non ti permettere chiamarci miserabile, perché la parola miserabile è una parola offensiva. Ma non siamo miserabili. È poco. È a poco, noi ci piace miserabile. La figa, tu la devi finire. Poi allora, ma quello che c'entra, scusa Carmine, uno a tutti piace, anche a Davide piacciono le donne, ma cosa c'entra questo qua? Lui sta dicendo che secondo lui tu sei un miserabile perché frequenti i bordelli di mezza Europa. Ma miserabile è un'altra cosa. A me lo dici. Cioè, per me tu sei il paladino, sarai il paladino della marcia dei puttanieri, figuriamoci, dai. Ma poi Carlo Penna, ieri ci volevo parlare, un mito, ma che fa scherzi, una persona a 70 anni che tomba come un riccio è un mito. Ma poi ti volevo dire un'altra cosa, che mi volevi là dire? Noi andiamo là, non è che perché io non trovo una donna chi? Che si mette noi a pecorina. Noi chi? Scusa, noi chi? Il popolo dei trombatori del bordello, come noi chi? Ah, grandi, ma tu mi pare. No, dico i frequentatori scusami, del bordello. No, vabbè, adesso io non faccio parte, per carità. Ho grande... No, non faccio parte, non è che io sono il grande popolo, faccio parte del popolo dei frequentatori di bordello. Ma adesso sono stato, ma non mi metto a capo dei frequentatori dei bordelli, perché i frequentatori dei bordelli sono gente che ci va in maniera assidua, in maniera evidentemente ti ha riconosciuto come un suo simile. Adesso a media una volta a mese mi faccio, vado lì A parte che guardo prima, vabbè, ma questo già ve l'avevo detto, non voglio essere ripetitivo. Io mi guardo sempre l'ultimo aggiornamento che fanno, le ultime proposte. E vabbè, questo quelle lo che vanno di più, questo... quelle che vanno di meno. È normale, mica parto così, mi faccio 1400 km, 700. Capito, Parenzo? Non è che uno parte così. No, non è che uno... parto così, scusa, a parte che ha un costo, vabbè, ma quello è secondario. Sì. Ma poi io volevo dire, Davide, ma secondo te io sono così cesso che non trovo una che mi dà gratis? Io ma vado lì perché questo, diciamo, è quasi sicuro, visto le cose che lei dice ai radio, è quasi sicuro. Ma al se 100%. Ci mettiamo a fianco, io sembro coso, ritardino. Ma che minchia di... Ma qual è la donna che può essere attratta da tanta volgarità e grottesca? Ma che volgarità? Ma che soldi? Ma che volgarità? Gretta, ma non è che vado lì al frusto. Ma qual è la persona che può essere attratta da un personaggio simile? Ma perché tu dici che non è... Stai offendendo... Dio Parco di Roma, probabilmente. No, scusami un attimo. Stai offendendo adesso, stai offendendo... Che telefona e che rende pubblico al mondo... Che lui dà a prostitute, ma può essere attrattivo per qualcuno. Cioè, ma secondo te una scimmia del bioparco? È una scimmia. No, ho detto neanche le scimmie del bioparco possono essere attratte da un uomo simile. Carmine, ti ha dato del peggio della scimmia. Sei volgare. Detto, neanche le scimmie possono essere attratte. Ma se ci mettiamo a fianco, tu mi sembri un panda. O panda quello che sta nelle montagne. Mi pare quello che sta appiccicato come deve pagare. Ma è ovvio che uno così deve pagare. È talmente repellente in quel che dice che è evidente che non può avere nessuna relazione normale. Ma che differenza c'è tra io che vado lì e le pago e le tratto bene e mi danno un servizio e un vecchio di 80 anni che non faccio nome in Italia che vanno lì e se prostituiscono a casa sua? Ma chi minchia te parla? È normale? Io sono normale. Vabbè. Io sì che sono normale. Carmine, fermo là, Carmine. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, il difensore dei musulmani, degli zingari e dei negri. Avare, vergognati, sai come si dice a Roma? Vattene a piander culo. Ma quanto si sente fico, Parenzo? Ma quanto si sente superiore, Parenzo? Ma quanto si sente intelligente, Parenzo? Ma quanto è stronzo, Parenzo? Via Parenzo, solo Iside. Solo Iside. Via Parenzo. Anche in Russia l'antiparenzismo è dilagante. Parenzo, io ti adoro, ti adoro. Lascia stare Cruciani che non capisce un cazzo. A Parenzo, non mai rotto il cazzo, ma una bella botta gliela data, eh. Io quando sento Parenzo mi eccito. Però le donne, hai un grande seguito tra le donne, caro David, eh? Sì, dipende di che età. No, è un grande seguito tra le donne. Tra le donne di che età, e tra le persone, diciamo, ragionevoli e moderate, in teoria, no? Tra le persone, sì, che è la stragrande maggioranza di questo paese. Per tra le persone di buon senso, diciamo, tra le persone di buon senso. Se di buon senso, noiose, etiche, non lo so, però sì, è la maggioranza. Altrimenti, se questo paese fosse dominato dai Carmine, dai Donato, adesso che ti ha fatto Carmine? Scusa, povero Carmine, cosa ti ha fatto? A livelli bassi, questo paese, per fortuna. Ma tu sei, tu hai identificato, tu dici. Carmine, se fossero tutti come Carmine, il paese non è tutto come Carmine. Ma poveraccio, che ha fatto Carmine? Che ha fatto? Ah, bordello! È il gradino più basso dell'umanità, ma non è quello il punto. Ma dai, su! Non è quello il punto. Il problema è che questo paese, per fortuna, non è quella roba lì. Perché se la maggioranza fossero questi personaggi che qui in questa trasmissione hanno l'80%, no, il paese non sarebbe più nel G8, ma sarebbe nel G-22. Quindi questo è il dato. Ma che vero. C'è ancora il karma? O se n'è andato il karma? Se n'è andato? C'è ancora karma? Sì, se n'è andato la sua occupazione principale. Facciamo un sondaggio! Karma. Facciamo un sondaggio. D'accordo, allora, io voglio vedere chi ascolta la zanzara, chi è che va a mignotte e chi è che non ci va. Io penso al 70% di quelle che chiamano. Solo che non hanno i coglioni per dire che vanno a mignotte. Questo è il problema dell'Italia. Beh, adesso, questo è il problema dell'Italia, mi sembra un po' grossa. Questo è uno dei problemi. Tu sai che la gente sono falsi. Tu là, io incontro dottori, farmacisti, gente importante. Addirittura ho incontrato una delegazione di giapponesi che erano tutti un certo livello. Giuseppe, avevano orologi 10.000 euro. Non è mafiosi, gente di un certo livello, capisci o no? Sì, cioè capisco, lì non è che ci va il karma, se parte da Roma, arriva là, rappresentante, sta a fare la trombata, due, tre, quattro, quelle che sono. Là ci va, ci vanno tutti. Tutti, l'80% dell'essere Ma tu umano. Poi sei rappresentante di che cosa? Io non ho capito, karma. Sei no, rappresentante... io non sono rappresentante, Giuseppe, io mi faccio capo dei trombatori che vanno in alto. Vabbè, ma questo d'accordo. Quello, vabbè, quello. Al di là di questo, tu che fai però di mestiere? Oltre a questo, oltre a... Io faccio rappresentante. Appunto, Giuseppe. Ma di che cosa? Parenzo, secondo te di cosa? Parenzo, non te lo posso dire, Giuseppe, che dopo, ma ascoltano i clienti, ma che ti guarda che io sono pure diplomato 110, non è ma non c'entra quello, può essere anche laureato alla Bocconi, capito? Lei, e c'ho diverse specializzazioni, ma non è che non discuto da montagna. Ma questo qui, lei per me può essere anche laureato con Mario Monti alla Bocconi, non è quello. Me ne frega un cazzo di quel rincoglionito di Monti, andiamo avanti. Vabbè, io ho detto che lei per me potrebbe essere, non è che discuto, per me potrebbe essere. Non mi stu- se lei mi dicesse, guarda, sono laureato con Monti alla Bocconi, io critico quello e giudico quello che lei dice. Ma perché gli dai del lei al karma? Scusa, lei, perché lo voglio dire al karma? Io sono del tuo, le persone con cui ero in rapporto. È normale, con dai, questo qui per fortuna mai l'ho visto, lo sento purtroppo ogni tanto qui alla radio, ma non ho nulla a che vedere, perché non, per fortuna le persone possono scegliere. Ma adesso non prendere questa distanza dal karma, dai. Non te la pigliare sul personale, perché poi diventi pure antipatico. Perché come è stato simpatico? Ritengo davvero che lei sia una persona da disprezzare, ma lo dico dal profondo del cuore proprio. Vai a ripigliare, Davide. Davide, lei tu è una devi persona da disprezzare nel per mondo, dice, nel mondo in Italia, perché lei è una buona parte che vogliono che ragazzi, però non mi accavallate, che poi fanno pure pille. Cioè, ma lei sa perché da disprezzare? Lei da disprezzare perché ha perso una delle cose che negli uomini è la più preziosa. Vedremo, la dignità. Dai, che cos'è? Che la dignità. La dignità. Guarda che amico mio, la dignità sa che può essere pure che tu ti sei divorziato e ti sei messo con un'altra donna. Non mi parlare di dignità. Ma che gliene perché frega anche lei tu della non mia vita privata? Ah, non c'entra. Ah, non c'entra. Quando ti tocca nel culo non c'entra. Ma io mica parlo della mia vita privata. È lei che telefona alla radio per vantarsi delle sue presunte dei suoi presunti amori mercenari. Mica, ma lei, io mica parlo della mia vita privata. Vabbè. Lei invece chiama e ci parla dei suoi presunti amori mercenari. Sono attività. La sua attività è quella di essere il nulla. Lei esiste solo perché chiama la radio. La sua vita è talmente grigia, certo, che Lei è il nulla cosmico. I fisici definiscono il nulla. Vabbè, dai, ti sta allargando troppo. Perché telefona alla radio una volta al mese? Quella che è andata sulla luna. Dopodiché, dai, la sua vita è quella di stare in macchina, di fare un lavoro che lei dice essere rappresentante è molto dignitoso, è un latte della mattina, ringoglionito, e ogni tanto spendere quei suoi quattro soldini con delle donne. Vabbè, ma che c'è di male? Che c'è quindi di male? Quindi, la sua vita è talmente pari allo zero che l'unica identità che ha è telefonare e vantarsi di una cosa che altri terrebbero nascosta perché è da miserabili. Ma no, non è da miserabili perché non c'ha i coglioni per dirla, capito o no? Quello è. Vabbè, ragazzi, mi avete rotto le scale. Basta, fermi tutti, fermi tutti. Get your motor running. Allora, Carmine Perugia, vai. Un altro Carmine, però credo un Carmine. Salve, buonasera. Dimmi, Carmine. Buonasera. Dimmi, dimmi. Ciao, Cruciani. Ciao, Parenzo. Senti, Cruciani, io ho una piccola domanda per te. Dimmi, veramente dimmi. Da anni. Ma perché hai questa invidia penis contro i napoletani? Veramente? Ma invidia penis non ce l'ho e non c'è proprio, non esiste l'invidia penis. No, ma a me sembra di averla. Io parto da un problema. Di averla, cioè, è una premessa. Una premessa. Perché che dovrei avere l'invidia penis? Non ho capito. A parte che l'invidia penis non ce l'ho nei confronti di nessuno, forse con Rocco ce la possa avere. Ma no, ma secondo me sì, perché sempre contro i napoletani. Io ho detto semplicemente il sindaco di Napoli, De Magistris, un po' scherzando, un po' no, ha detto che vorrebbe organizzare le Olimpiadi del Napoli del 2028. Okay. Cosa che è campata in aria, perché non ci sarà mai una candidatura di Napoli. Io ho detto, una follia il solo pensare di fare con tutti i problemi che premessa. Ha. Che negli sto, non premessa. Li sto qui ad elencare. Guardi sui giornali. Ogni giorno, guardi sui siti ogni giorno, guardi posso ogni giorno. Un secondo. No, posso aspetta, fermo, secondo, parlo io, poi tu parli quando lo dico okay, io. Perfetto, sulle notizie vengono alla città di Napoli e lei immagini se si possono organizzare le Olimpiadi a Napoli. Voi leggete le cronache quotidiane. Posso dire la mia ora. Senti, amico mio, posso dire la mia. Amico mio, ho detto la mia. Parto dal presupposto che sono contro Olimpiadi in Italia. Vabbè, allora, ma che vuoi da me? Non ho capito. Accettare da Cruciani che dice che Napoli non potrebbe mai sopportare le Olimpiadi in Italia mi sembra una sciocchezza. Lei ci deve informare, sì. Napoli non è fra i primi posti per quanto le rapine, quindi è inutile che fa le battute rapinarole. Non accetti un po' di ironia. Non è il 24esimo posto al mondo per quanto riguarda le rapine. Al mondo. Mi ci gioco una cena con lei. Al mondo. Guardi quante altre capitali, perché Napoli potrebbe avere il numero di popolazione per quanto riguarda una capitale, perché Carmine, Napoli è una grande capitale. Carmine, non ho capito però qual è il punto. Secondo te si possono fare Olimpiadi? Si possono fare le Olimpiadi, ma dire che Napoli non ha le capacità, le abilità. Ma di che parliamo? Ho detto che solo pensare di fare le Olimpiadi a Napoli, come dice il sindaco De Magistris, è una cosa talmente ridicola che non devo nemmeno dirlo. E appunto adesso abbiamo Angelo da Napoli. Decido io, stai zitto e vado a Napoli da Angelo. Bene. Sì, pronto? Dimmi. Eccomi. No, volevo dire che mi auguro che quella di De Magistris sia stata una provocazione per quanto riguarda le Olimpiadi. Ma sì, una battuta che ha fatto durante la trasmissione. Sì, no, perché noi abbiamo ancora strutture inagibili perché mai portate a termine oppure portate a termine quello in tutta Italia, non solo a Napoli. No, ma che hanno funzionato solo durante le manifestazioni. Io non posso pensare che è stata fatta una linea metropolitana. Io abito a Fuorigrotta, quartiere dello stadio. È stata fatta una linea metropolitana che tre o quattro fermate. Adesso non mi ricordo, perché dal 90 a oggi che non mi ricordo quante fermate ci aveva sta metropolitana. Vabbè, allora? Ha funzionato soltanto quel periodo lì e adesso è un ricettacolo di monnezza, di gente che si va a drogare, di gente che va sotto soltanto nelle scalinate. Dunque? Oppure sotto allo stadio c'è un parcheggio. Vabbè, insomma, tutto questo per dire cosa, Angelo? Per dire che è impossibile organizzare a Napoli, ma non in quanto Napoli, ma non si possono fare a Napoli. In Italia, a Roma, a Firenze, secondo me noi non possiamo pensare di organizzare le Olimpiadi per risolvere i nostri problemi. Salvatore Napoli, vai. Buonasera Giuseppe, buonasera Parenzo. Sì. No, volevo fare una provocazione a te in merito a quello che hai detto per quanto riguarda le Olimpiadi. Sì. Cioè, mi ha dato un po' fastidio, sai, che hai ironizzato sul salto alla buca piuttosto che l'altro. Vabbè, ma dai, ma non che non accetti l'ironia, avanti. Facciamo pure un altro... Il lancio del sacco di monnezza, chi tira più lontano si potrebbe fare. Esatto, pure lo sputo, mettiamo la tua foto bella, vediamo chi è che ci arriva prima, no? Questo è ottimo, perché è una bella disciplina, no? Ma perché non lo fate, non ho capito. Non lo so, vediamo, adesso ne parliamo col sindaco. Ecco, fatela a prescindere dalle Olimpiadi, no? Una bella gara, lo sputo in faccia a Cruciani. Dai. Nell'immondizia facciamo pure lo sputo, così la mettiamo. Ma un'altra specialità, disciplina che potrebbe essere inaugurata in occasione di Napoli 2028 potrebbe essere, oltre a quella che hai detto, anche, ripeto, è molto interessante, la corsa al Rolex. Cioè, tu hai un tizio fuori dalla macchina, Parenzo, no? Col braccio fuori dalla macchina, con Rolex esposto così. Cioè, due col moto, una gara a nazioni, in quanto tempo riesci a strappare Rolex dal polso? Questo potrebbe essere molto interessante, o no? Sì, però la potessi fare ovunque questa cosa, no? Beh, diciamo che a Napoli il furto dei Rolex, diciamo, e sono abbastanza, da quello che leggo dalle cronache, sono abbastanza specializzati in questa cosa. Soltanto a Napoli, no, se tu vai in qualunque quartiere, in qualunque zona. Bisogna vedere poi quali sono le persone che le fanno, questi, diciamo, a Milano chi è che ruba i Rolex? Molti dicono sono gente in trasferta, no? Non so da dove, però gente in trasferta. Allora, ricevo un messaggio. Sbagli, Napoli è strepitosa. La difendo. Red, Red Ronnie, ciao Red. Ciao Giuseppe, bentornato. Ma che non c'hai la voce? Che c'hai? No, c'ho poca voce oggi. Mi chiami senza la voce, non ho capito. Poveretto. Poveretto, come dice. No, però tu sostieni una cosa, no? Leggi sui giornali e leggi che Napoli. Leggi sui giornali e leggi che... Ma un conto è leggere, un conto è andarci. Allora, secondo me è in atto un qualcosa di denigratorio nei confronti di Napoli, perché Napoli oggi, te l'assicuro, è la città culturalmente più in ascesa. Con vabbè, ma quello che c'entra, che è culturalmente più in ascesa. Se Napoli, ti faccio anche un discorso politico, se Napoli fosse così disastrosa, secondo te De Masi avrebbe stravinto un'altra volta contro tutte e tutti? Vabbè, ma quello è un altro discorso che riguarda la politica dei Magistris, no, perché no, ha vinto gli avversari, eccetera, eccetera. No, riguarda la gente. Vabbè, tu sarai un ammiratore di De Magistris, ma questo è un altro discorso, no, scusa. Non c'entra De Magistris, io ti ho fatto un discorso politico. Io sono un ammiratore di Napoli. Vabbè, ma sei un ammiratore di Napoli, Napoli sarà pure bellissima, sicuramente bellissima. Ma ragazzi, ma non stiamo parlando di nulla. Il sindaco De Magistris sostiene, un po' in maniera provocatoria, candidiamoci per il 2028. Solo un pazzo può pensare di organizzare le Olimpiadi a Napoli. Io dico solo questo, dai. Ragazzi. Assolutamente no, assolutamente no. Vabbè. Se pensi di organizzare a Roma, puoi benissimo pensare di organizzare a Napoli, a Milano, Bologna. Ma non dai, c'è nessuna differenza. Ragazzi, non scherziamo. Tu leggi i giornali, ma non scherziamo. Le Olimpiadi a Napoli. Le Olimpiadi a Napoli, ma ragazzi, ma non diciamo cose assurde. Ragione Red Ronnie, perché alle volte si prendono alcune notizie minime che possono accadere in qualunque periferia, di qualunque città del mondo, non d'Italia, del mondo. Se tu qualche anno fa fossi andato nel Bronx, ad esempio, la notte o anche di giorno, avresti, come dire, dovuto mettere misure di sicurezza. Ma dai, è un'altra cosa. Quindi dai, ha su. Ragione Red Ronnie, non esistono città nelle quali non è possibile fare, non è vero, ma voglio dire a chi, ma non è, è assoluto, è denigrare un'intera città, un territorio. Esatto. Ragazzi, ma non dite, non dite cose allucinanti, dai, ma che stereotipi, ma quali stereotipi, dai. Giuseppe prima ti ha detto Parenzo che possono rubare i Rolex, le rubano dovunque. Ma sì, ma d'accordo, ma se era... rubano un Rolex a Napoli va in prima pagina. Se lo rubano a Milano, Roma, Catania o dovunque lo possa rubare, non ragazzi, non diciamo cose allucinanti. Già a Roma è una follia, a Napoli è la ultra follia, siamo nel campo del marzianesimo. Da quanto tempo manchi da Napoli? Ma non è questo, a parte che non ci posso andare perché se me menano, ma non è questo il punto fondamentale. No, ma da quanto tempo? Ma no, ma sono andato qualche anno fa quando ci sono state le elezioni, le prime elezioni, non qualche mi ricordo. Qualche anno fa. Ma non è quello, è impossibile organizzare una cosa del genere, allora, è impossibile, non è possibile, invito, è una roba... Io ti invito a Napoli, ci andiamo a fare un giro e torni... Già e bisogna rivoltare come un calzino Roma per fare le Olimpiadi, figuriamoci a Napoli. Senti, però ti voglio chiedere una cosa, ieri sera la signora Daniela Martani, l'amica Daniela Martani, è qui da noi ospite per spiegare questa cosa assurda dell'hackeraggio, ha detto di essere stata hackerata e non ha scritto lei contro gli abitanti di Amatrice poco dopo il terremoto, ha detto che tu non sei vegano, siccome tu l'hai attaccata dicendo... Avete fatto le correnti pure tra i vegani, tra l'altro, che è pericolosa per il veganesimo, fa danni, eccetera. Ci ha detto, no, ma lui non è vegano tanto. Cioè, ha messo in dubbio il tuo veganesimo, capito? Questa è una cosa molto grave, Ma è grave? Cioè, nel senso, a me non interessa niente quello che dice la Martani. Esiste solo perché parla di queste cose. Io faccio altre cose. Vabbè, questo non c'è dubbio. Sono costretto a parlare di vegetarianesimo perché di veganesimo perché sono vegano. Io ho sempre detto anche che non sono un integralista islamico. Ti faccio un esempio. Beh, un po' se integralista vado... sei, dai, forza. No, no, no. Se io vado a Cuba e penso di fare il vegano, significa che devo mangiare riso e fagioli fin quando sono là. Quindi non ti dico come sono messo. Quindi è chiaro che ogni tanto mi faccio una frittata, perché cazzo, cioè, di riso e fagioli tutti i giorni, visto che non mangio il pesce e non mangio... Allora è chiaro che... Ma la frittata volte... per la frittata perché ci sono le uova, dice. Le uova. Ma ho capito, la Martani dunque secondo te è una che esiste solo perché parla di queste cose qua? Ma no, la Martani diciamo che lei esiste, cioè oggi come oggi occupa uno spazio nei media solo perché o mostra le tette per dire questa roba, o fa un post e poi dopo torna indietro allucinante sulla matriciana, o fare un'altra manifestazione dove parli, e poi dopo mi ha detto una sua amica che quando era in Sardegna faceva andare il suo cane sempre in acqua e questo cane gli sono arrossati tutti gli occhi e alla fine c'entra, tratti male un animale. Ah, tratta quindi, male gli animali. Esatto, dice. Esatto, quindi alla fine sai, a me dispiace molto per Daniela perché è una persona che ha delle... Ha detto che non sei vegano praticamente, ha detto non è vegano perché mangia il latte, prende il latte, che ne so. Ma chi prende il latte? Io perché ho detto una volta che ogni tanto... ho voglia di un gelato, mi mangio un gelato. Ma lei è contrario ai gelatai, addirittura vuole chiudere le yogurterie, la matta, cioè vuole chiudere le yogurterie. Cioè, ma tu... le persone, allora devo dirti che tra i vegani che ti hanno attaccato e te, ho difeso te. Meno perché male. Anch'io sono stato attaccato perché a Milano Marittimo ho visto un cartello con scritto anche Milano Marittimo contribuisce con la matriciana dando un obolo e io ho scritto un post dicendo... io non la mangio la matriciana perché sono vegano, però è un gesto lodevole. Vabbè, ma grazie, bravo, ma figuriamoci se non si può mangiare la matriciana, se un vegano dice no alla matriciana. No, dai. Tu non puoi capire come mi hanno attaccato. E che ti hanno detto? Ah no, ma mi hanno detto che io non, come faccio a dire che è lodevole massacrare dei maiali, poverini. Ma io con la differenza che io non mangio carne dal 1990. Loro hanno smesso di mangiare carne 2 o 3 anni fa perché diventa una battaglia e quelli che fanno... Senti, io ti voglio chiedere una cosa, ma tu, è un argomento di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, per carità, non te lo auguro naturalmente, ma tu la faresti la chemioterapia oppure no? Oppure pensi che sia una porcheria, che pensi che sia un modo sbagliato per affrontare un cancro? Io non la farei la chemioterapia. No, sei contrario? No, non è che io sono contrario. Attenzione, io lascio la libertà alle persone. Vabbè, quello è fondamentale, però non la faresti, perché? No. Perché io mi curo con oli essenziali, mi curo con l'alimentazione, mi curo con le piante. Lo stesso, il più grande oncologo dice che non mangiare carne limiti notevolmente... Ho capito, ma se ti arriva un tumore, che fai? Non fai la chemioterapia? Se mi arriva un tumore, intanto devi andare alla causa. Perché molte volte vai a fare un intervento sul sintomo, che è il tumore, la cellula malata, e non sai ciò che ha fatto malare la... Ho capito, ma qualcuno pensa che la causa sia un dolore, una cosa del genere, ma non è che risolvi le cose. No, cioè. No. Comunque no, la chemioterapia distrugge e basta, secondo te? Non ho detto questo, io non la farei. Cioè, io non farei chemioterapia, nel senso che sono... Beh, ma si crepa. Scelta, no, ma per carità, però c'è il serio rischio di crepare. Hai visto quelle due, no, che sono morte recentemente, quella ragazza lì, eccetera, morti, stecchiti? Va bene, anche questo è il discorso dei Rolex di Napoli. Rubano, cioè? Rolex di Napoli. Ma queste qua non hanno fatto la chemioterapia, sono morte. Quante persone sono morte nonostante abbiano fatto la chemioterapia? Ma certo, non c'è dubbio. Tu dici che la chemioterapia ammazza, la chemio ammazza. No, no, lo so, io ti posso dire questo allora. Io ho incontrato Maria Carta nel 1993 a Ignos in Sardegna. Lei era all'ottava chemioterapia, i medici le avevano dati 3 mesi. Vabbè, però sono casi singoli, amico mio. Aspetta, io le ho detto vieni con me. L'ho portato in un luogo, hanno cambiato l'alimentazione, hanno cominciato a fare massaggi con oli essenziali potentissimi. Tu dici che di fronte a un tumore si può guarire anche con oli essenziali e cibo alternativo. Sono sparite le metastasi. Lei è tornata a cantare, l'abbiamo riportata a cantare, il giornale è scritto è rinata Maria Carta, perché lei con la chemioterapia le ha piegato il palato e non riusciva più a cantare. Ho capito. Senti, devo chiudere, un'ultima cosa, una cosa che riguarda delle persone che conosco. Ma tu, se hai i pidocchi in testa, che fai? Sì, tocca. Li ammazzi o no? Dimmi la verità, li ammazzi o no? I pidocchi in testa? No. Come non li ammazzi? Io intanto ho avuto la fortuna di non aver mai avuto i pidocchi in testa. Vabbè, ma è pieno di gente che c'ha i pidocchi, no? E che fai? I pidocchi in testa, c'è il modo per eliminarli, per toglierli. Non... Io come con lo shampoo? Come fai? Come fai? Non lo so. Senti, è chiaro che anche io uccido degli animali. Perché no, ma come fai ad eliminarli senza ammazzarli? Come fai ad eliminarli senza ammazzarli, Pidocchi? Ma non lo so, mi informo. Ma non si possono non ammazzare, Pidocchi, amico mio, non si possono non ammazzare, ma è una follia. Beppe, Giuseppe, ma allora, che fai? Li fai andare via? Allora, li fai scansi? Fermati, prendi un animale che mangia un coniglio. Aspetta un attimo, aspetta che c'ho la pubblicità, aspetta, fermo. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. No, però ragazzi, attenzione, abbiamo scoperto una cosa incredibile, che Red Ronnie, che per carità, dopo tante battaglie, tanti confronti, anche duri, eccetera, eccetera, io comunque giochiamo ad armi pari, ci rispettiamo, eccetera, anche se su molte cose la possiamo pensare in modo diverso, però di fronte ad una cosa concreta, è pieno di gente a Milano che mi dice che circolano Pidocchi, eccetera, eccetera, e i Pidocchi, quando uno ce li ha in testa, che si fa? Si ammazzano. Lui dice che no, bisogna trovare soluzioni alternative. Cosa fare? Accompagnarli col piffero come si fa coi topi? Che si fa, Red? Non ho capito. Io parto da un presupposto che ogni animale ha degli occhi, una bocca, un cuore, un sangue che circola e dei sentimenti. Tutti. Paura, i Pidocchi hanno paura. I Pidocchi hanno paura. Certo, tutti gli animali. No, ma allora, di conseguenza, devi rispettare gli animali come rispetti gli esseri umani. Okay, e che fai con i Pidocchi? Che cosa fai con i Pidocchi in testa? Cioè, come li elimini? Li dovresti eliminare mi informo, cavolo. A parte il fatto ma non ci sono altri modi per eliminarli, se non uccidendoli, ammazzandoli, questi cosi schifosi. Quando mi troverò, spero mai, in una situazione del genere, l'affronterò. Io non ho. Avrai una nipote, un nipote, un nipote, non c'è nipoti. Le mie figlie non hanno mai avuto i Pidocchi, io non ho mai avuto i Pidocchi, nessuno che conosco mai avuto i Pidocchi, mi dispiace se mi lanciano i Pidocchi. No, sì, per carità, ma non c'è niente di strano. Io sono preoccupato se magari mia figlia se li prende, che poi va a scuola, Giuseppe, no? Giuseppe, pensa, se accadeva a Napoli, che tra le specialità delle Olimpiadi mettevi anche il salto dei Pidocchi, no? Cioè, se lo dici tu Napoli, questo? Io non l'ho detto. No, tu, sei tu che dici queste cose. Ma io non ho detto il salto delle Olimpiadi dei Pidocchi. A Milano ci sono i Pidocchi, ma questo non fanno chi. Ma no, ma ho detto a Napoli, a Milano, nel senso tra alcune persone che conosco, non sto dicendo a Milano in generale. Vabbè, però hai capito, tu stai dicendo qual è il metodo alternativo all'uccisione dei Pidocchi? Me lo devi spiegare, non qual lo è? So, ma non lo so, io non sono un puttologo. Giuseppe, io non sono un puttologo. Vabbè, comunque, secondo te non bisogna uccidere, bisogna trovare il modo di farli andare via dalla testa. Non bisogna uccidere vite. Ma i Pidocchi non sono vite, Pidocchi! Non possono essere vite, Pidocchi! Vai, su, c'è un limite a tutto! I Pidocchi non sono vite, a parte che non è vita, manco secondo me nemmeno un maiale, nemmeno una cosa, non è vita come un uomo, come quello di un uomo. Più intelligente che sì, te. Ma non è un uomo, capito? Non è la stessa cosa di un uomo. È un essere vivente. Sì, no, ma non è come un uomo, è un essere vivente che ha paura, ha felicità. Però è un maiale. Su internet. I maialini, gli affetti che hanno. Ieri ho visto una gallina su internet che ha un affetto incredibile con un bambino. Vatti a vedere gli animali. Il verme solitario? Ma porca puttana, ma sai che tu stasera sei fantastico. Tu mi vuoi far dire che io ammazzo il verme solitario? Non lo so, c'è una barzelletta sul verme solitario, come lo si prende, ma non lo so, non ho mai avuto il verme solitario. Magari lo avessi, vero, così dimagrisco un po', questo ti dico. Vabbè, ma dai, su, ragazzi, però se tutti quanti sono uguali, cioè, ma come cazzo fai adesso, veramente, con la tua intelligenza e col fatto che sei una persona che non è che fa queste cose da matto, eccetera, tu una cultura musicale, tutto questo, a pensare che il Pidocchio sia uguale a mia figlia, un Pidocchio uguale a mia figlia, non è possibile, dai, un Pidocchio uguale a te, Red Ronnie uguale a un Pidocchio, non è possibile che tu pensi una cosa del genere, ha la stessa dignità di un essere umano, dai, su. Siamo tutti esseri viventi. Vabbè, ragazzi, io non ce la faccio più, col Pidocchio non ce la faccio, ma ti posso seguire su altre cose, posso combattere. Non uccido neanche le zanzare, se per questo, le zanzare... Che ci fai con le zanzare? Il coso? Che ci fai? I parti? Non ci fai niente. Cioè, io sono tormentato le ultime notti che non riesco a dormire perché devo dormire con le finestre aperte a Milano e c'ho delle zanzare che mi rompono i coglioni. Dormo 4 ore a notte per questa minchia di zanzare. Ho il muro di casa mia, ti giuro, le pareti di casa mia, della camera da letto piccola che ho, che sono vergognose perché sono tutte macchiate, che non faccio, dovrei fare una bella ripassata, che hanno. Cioè, sai quando ammazzi la zanzara che c'hai il rosso sangue, no? Nella parete lo lasci lì per tipo per, sì, ho capito, per ho capito, tre mesi, per quattro mesi, finché non c'è qualcuno allora, che te le pulisce. Cioè. E c'ho tutte le pareti così, tutte piene di zanzare ammazzate. Ma come fai a non ammazzarle? Prova a cambiare alimentazione, cioè, magari, ma lascia, hai meno odore, e meno sei meno appetibili di grassi, cioè, no, per le zanzare. Ma no, ma non credo che sia così, perché tu non, a te le zanzare non ti arrivano addosso per, semplicemente perché sei vegano. Molto meno che gli altri, ma molto meno che gli altri. Vabbè, allora, e secondo te le zanzare, se arrivassero, si potrebbero anche non ammazzare? Certo che non le devi ammazzare. Ma come fai a non ammazzarle? Come fai a non ucciderle? Non capisco come fai. Cioè, se stanno dentro casa. Qualsiasi essere vivente che tu riesci a non ammazzare, ma hai ottenuto qualcosa. Lascia perdere io che prendo lì i libri che ho nella libreria lì e lì comincio a utilizzarli. Pom! No, tu... le libri dietro e faccio. È bellissimo, stupendo. Quando vedi lo schizzo di sangue sulla cosa, ma è meraviglioso. Ma usare una di quelle macchinette che le tengono lontane, no, Ma le ammazzi lo stesso però in quel modo, eh? Non è che non le ammazzi, cioè... No, le tieni lontane. Ah, i vape, quelle robe lì che metti, sì, così le tieni lontane. Cioè, no, ogni tanto metto il coso, come si chiama, la cosa nella pelle, no? Cioè quella roba nella pelle. Ah, l'autan. Sì, l'autan o altri prodotti che tengono così, però non servono, che queste qua sono micidiali, quelle di Milano, capito? Sono pazzesche, io mi diverto come un pazzo perché Milano, Milano, credo sono quelle di Napoli. Vedo quella zanzara lì sulla parete, prendo il libro e sbam, sento il rumore e voglio sentire e voglio vedere lo schizzo di sangue. Ma scusa, ma allora, bellissimo, allora se vuoi stupendo. Essere più sadico ti consiglio. Non dormo, però è stupendo, almeno c'è questa soddisfazione. Quegli affari elettrici, no? Quelle bellissime, no, quello si friggono, ma è proprio la mia, è proprio la sensazione di prendere il libro, almeno questo, no? Almeno non dormo, però mi diverto. Cioè prendo il libro e boom. Cioè scusa, ma nel frattempo ci siamo persi Parenzo? Parenzo è andato al cesso, a quest'ora va al cesso e poi va alla 7. Quest'ora va al cesso e poi va al cesso prima di andare alla 7 e poi va a truccarsi, ogni tanto torna, adesso fra poco torna. Ti saluto Red, chiamami più spesso, chiamami più spesso. Ciao. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Ragazzi, fino a questo non ci arrivavo, al di là delle zanzare che aveva già detto forse, ma i pidocchi non si devono uccidere, io non l'ho mai sentita, i pidocchi, porca la gran puttana Eva, i pidocchi! David, dove sei? Sai chi ci vorrebbe in realtà a Roma, caro David? Vogliamo provarlo a chiamare, è tornato o no? Adesso torna, sta ancora al cesso. Dai, David, torna su. Bisognerebbe chiamare nel disastro per adesso dei 5 Stelle, eccetera. Io rispolverei il cavaliere Auriemma. Eccolo che torna in postazione, David. Chiamiamo il cavaliere, vai. Italia morala, Italia morala, Italia morala. I fraci li vogliamo, i fraci tutti in campagna. Solo le mignotte in centro, tutte le mignotte in centro. Tutti a mignotte col taccasi. Italia morala, Italia morala. Pronto? Cavaliere? Buonasera a tutti. Come stai, cavaliere? Bene, oggi sono incazzato con 5 Stelle, sti froci. Che come sti froci? Che è successo, scusa? Di Battista. Che ha fatto di Battista? Sì, ma sono tutti scemi, molte ragazzine. Perché? Hanno messo il pupazzo al Comune di Roma. Come pupazzi? Cioè, chi se la Raggi è una pupazza. Sa quale i pupazzi che gira quando vedi la televisione? E gira, torna, non combina niente. Il comune soffre. Scusa un attimo, cavaliere. Ho parlato lo statista. No, ho capito, il cavaliere, però alla fine, in questo occasione dei 5 Stelle, a questo punto era meglio Auriemma, scusa. No? Meglio Auriemma, meglio la Raggi tutta la vita. Chi la Raggi, quella maglia, cioè, facevi fotocopie, facevi fotocopie. Un italiano qui, Camillo Benso, conte di Cavour. Che faceva, scusa, che faceva? Faceva, Ma c'è i fotocopie, lo studio di Prevedo. Ah, beh, evidente. Ma c'è i fotocopie, questo è vero. Questo è vero, però, questo è vero. Ma insomma, non ho capito, Cavalier, ma la situazione a Roma è drammatica, allora? No, è brutto, sono i pupazzi di Maglia. Brille, pagliacce, ma sono dei ragazzini, sai quei ragazzini che vanno a scuola prima di andare, questo so. Adesso siamo a paura reverenda, perché stiamo raccogliendo i film per fare il campione del 2024, stiamo raccontando i film noi. No, ma aspetta, non ho capito bene, hai capito tu Parenzo qualcosa di questo ultimo passaggio? Non ho capito una sola parola, ma forse è meglio, perché non sono mi sembra allora, che... Adesso stiamo raccogliendo le film. Su, ma chi sta raccogliendo le film? Cosa? Chi? L'Italia Morale. L'Italia Morale sta raccogliendo le film per che cosa? Perché se si deve fare a Roma 2024, cioè, vogliamo noi a Roma, decide il cittadino, decide la Raggi. Ma come decide la Raggi? Il sindaco ha detto di no praticamente all'Olimpiade. Noi non diciamo di sì adesso, stiamo raccogliendo le film, Ma scusa, bisogna ripulire la città prima, bisogna fare una bella... Ma chi ripulisce? Ma chi ci sta? Perché sono tutti in... hanno tutti avvisi di garanzia, a me tutti in galera, a tutti in galera, in galera, in galera. Ma chi in galera? Chi? A Di Battista. No, ma come, che c'entra Di Battista in galera? Ma scusa. Di Battista fa parte del giro, fa il giro della truffa, fa il giro... Hanno trovato che i mani in da marmellata. Ma non hanno trovato niente Di Battista. La mani in da marmellata sta. No, ma non... Di Battista. Ma non ho capito una cosa, scusa. Nulla, state raccogliendo le firme per che cosa? Per le Olimpiadi a Roma, per che cosa? Le Olimpiadi a Roma, già, 2024, stiamo raccogliendo le firme perché... Non può decidere il sindaco, non può. Ma per forza decide anche il sindaco. È l'unico che decide. Ma che è una pupazza, che decide? Noi stiamo raccogliendo i primi e fa 2024. Scusa, Cavalier, vogliamo ripulire Roma o no? La vogliamo ripulire o no? Io voglio ripulire Roma, però non c'è, come? Non c'è la capacità. Non come c'è la ripuliamo? Capacità. Come la ripuliamo sta Roma? I froci vanno a Pomezia. Quello lo sappiamo, questo è il primo punto del programma. Tutti i froci omosessuali, tutti a Pomezia, d'accordo? Tutti i froci a Pomezia, compresi la lesbica. E compreso la lesbica, certo. I Rom uguale a Pomezia, mettono la gabbia, mettono i Rom quello lì. Questo è il secondo punto del programma. Poi il terzo punto, se non mi ricordo male, era i taxi ovunque, giusto? Basta gli autobus, tutti in taxi. Tutti gli autobus, tutti in periferia, scende Roma, solo i taxi stanno camminando. Capito? Costa di meno il tassi, fratello mio. Questo è nato dalle gare. Tutti i tassi, stanno tutti bene a Roma, sotto i cittadini si hanno i soldi. Ma cosa dice? Altro punto del programma qual è? I turisti, ma non è solo quelli che c'è i soldi a Roma. Come quelli che c'hanno i soldi, scusa? No, a Roma resta solo quelli che c'è i soldi. Due giorni a Roma e basta, c'hai i soldi, paga a Berga, va a mangiare. A casa loro, io a casa loro. Scusa, non ho capito, cioè al massimo un turista quanto può stare allora a Roma secondo te? Due giorni, al massimo due giorni. E quelli che non c'hanno i soldi, cioè quelli che vogliono pagare? Vanno a casa loro, stanno a casa loro. Ah, così? E come i proci, come i pederasti, come i gay, come tutti quanti, tutti a Pomezia. E poi altro punto... Come le buche di Roma. Vi do la notizia. Qual è la notizia? Fra qualche giorno, la Procura lo mette 30-40 mandati di cattura. Ah, 30-40, dici, 30-40 mandati di cattura. Sono tutti i grillini, sono i ragazzini, bambini, sono tutti ragazzini. Vabbè, che c'entra però, saranno ragazzini, ma non è che per forza i mandati di cattura. Vabbè, ma... capace, no, ormai si mangia la marmellata, fratello, mi mangia la marmellata, hai visto la morale lì, hai visto? Il magistrato l'ha nominato, ma ha cacciato era indicato, sono tutti le mani da marmellata. Tutti con le mani della marmellata, tutti per carità. Tutti, tutti. Marmellata, mai mettono tutto ormai. Ciao Cavalier, ciao. Saluti, ciao. Voto Italia Morale, morale. Noi tutti coi taxi in città. I froci e i negri li mandiamo coi pullman in periferia, in campagna, con le mucche. Poi facciamo una legge che macelliamo le mucche, i negri e i froci. Italia Morale, voto Italia Morale, morale. Siamo al top. La Zanzara. Allora ragazzi, immaginatevi la scena, no? Cioè arriva a un certo punto al museo di Capodimonte a Napoli, dato che stiamo parlando di Napoli, Olimpiadi, eccetera, eccetera, un signore che si chiama Muti. Conoscete Muti, no? Grande direttore d'orchestra, cioè un uomo di livello mondiale. Signor Muti. si mette improvvisa, diciamo, un piccolo concertino, cioè lì con, era per una situazione ufficiale, non è che si è imbucato, cioè no, non è che ha fatto il portoghese al museo di Capodimonte. A un certo punto arriva un custode, un tale Giuseppe Cordua, che si arrabbia e blocca, diciamo, quella specie di, o cerca di bloccare questa specie di concerto improvvisato di Riccardo Muti. Sto parlando di Riccardo Muti. Uno va al museo lì, poi improvvisa una specie di concertino. Sentite che dice questo Giuseppe Cordua, se lo capite, naturalmente. Ah, noi siamo qua di servizio anche nella sala da ballo. Ho sentito suonare un baccano, e mi sono precipitato nella sala da ballo. Ma che si stava girando? Non è andato vicino, signora, lei qua non può suonare, mi spiace. Cioè faceva boom boom, si gira il maestro e quello dice: lei qui non può suonare, il museo di Capodimonte, Giuseppe Cordua. Senti che dice lui. Quindi avete cacciato? Non siamo in dei giochi, non capita a casa di tocca niente. Poi tu c'è tu fatto e cagai si per là, boom boom, c'è stato una vita così, che si trova, non è che capito, cavolo. Dice: non siamo in due giostre qua dentro il museo di Capodimonte. Vi rendete conto? No, cioè dai, su. Allora, il mitologico Carlo Pernat, ieri alla Zanzara, io farei un riassunto della situazione. Carlo Pernat, grande frequentatore di bordelli, manager di Iannone, è stato nel passato anche manager di Valentino Rossi, ne ha dette veramente di tutti i colori. Classe 1948, genovese, beh, qualche cosa si può discutere, ma erano metafore, le donne come i cani, sentite. No, sono sempre, però vuol dire che sono 50% sante e le altre pure. Le donne sono come i cani, ma nel senso buono, perché quando gli parli sembra che ti capiscano. Sembra che ti capiscano, ma non ti capiscono mai, né quelle né l'altra. Il problema, la donna è uno spettacolo, perché noi uomini senza loro non potremmo vivere, ragazzi. Ha detto una volta Carlo, ha detto: un mio amico diceva che del maiale si tiene tutto, però della maiala, però della maiala un numero di telefono. Il bordello ha una funzione sociale. Il bordello è una cosa sociale. Cioè, io non so, la gente che patisce di seme ritenuto, come dico io, cosa fa? Il seme ritenuto è quando tu non trombi per un certo periodo. Io lo chiamo quando tu tieni il seme ritenuto. Allora, a quel punto lì io dico: ma uno che è timido con le donne, perché tanta gente è timida, mica tutti sono come noi, cosa fa? Fa l'amore con se stesso. È una cosa sociale, voglio dire. A parte che impara a fare delle cose che magari con la moglie non fa. E quindi si scatena sessualmente e fa felice anche la sua compagna. Tra l'altro, e la compagna dovrebbe essere contenta di queste cose. Poi più volte gli hanno proposto di fare una guida, una specie di guida Michelin dei migliori bordelli, Secondo lui il troiodromo, perché così li chiama, il troiodromo migliore è a Jerez della Frontera. Ma qual è il weekend più caldo nel moto mondiale da quel punto di vista? Cioè, Spagna, minchia ragazzi. Se tu vieni a Jerez c'è Don Tico, che è uno spettacolo. Cioè, poi vai a Barcellona, c'è Riviera, il Presidente. E Brno? Brno è la patria, la Repubblica Ceca. Ha delle donne meravigliose, però ti dico una cosa. Ma si può dire che è un trombodromo e ogni tanto diventa... Io lo chiamo troiodromo, è diverso. Il troiodromo. Sì, lo chiamo diverso. Però lì ricordati che prima era molto più facile, adesso non fate furbe. Cioè? C'è dei posti meravigliosi. C'hanno dei locali bellissimi, Moulin Rouge, Velvet, però lì adesso costano. Ragazzi, infatti dico alla gente: attenti, andate più in Austria che più a buon prezzo. Vabbè, vogliamo mettere pure quella sui piloti gay. Non possono esistere piloti del moto mondiale omosessuali perché la moto, cioè la velocità, eccetera, è in contraddizione con l'essere gay. Ci sono, secondo te, gay tra i piloti di motociclismo? No, assolutamente. E perché non ci sono? Non lo so, non so se questa voglia di essere veloci, della velocità che ti... Cioè, secondo te è un mondo che respinge i gay? Assolutamente, molto maschilista. Molto maschilista. Lo posso garantire, sì, anche perché... Cioè, potrebbe esistere un pilota gay, secondo te, o proprio non è possibile? No, no, assolutamente, guarda. No, ecco, io ho svezzato... non lo so, io che conosco io questo mondo, no. Poi se lo sono, io, caro Davide, caro Giuseppe, questo non lo so. Scusa, ma le moto, secondo te, sono fatte per i gay, no? Cioè, andare in moto? perché no? Quelle soprattutto con tre ruote, sono un po' più dolci. Allora, David, hai letto che è successo in Corea negli ultimi giorni o no? Però ho visto che c'è un pazzo, il solito sanguinario dittatore, che gioca con l'atomica, certo che ho visto. Cioè, tutto il mondo è in allarme. I test atomici, il terremoto, che Kim Jong-un, quello ciccione con col capello strano, no? Che terrorizza il mondo. Per me non succede mai un cazzo poi alla fine, eh? Comunque, fino all'altro giorno è stato in Corea del Nord, naturalmente chi? Antonio Razzi. Antonio? Pronto, sono ritornato ieri sera sono ritornato. Ma tu sei stato pure in Mongolia? Sono stato anche in Mongolia, bellissime zone, io invito tutti, anche a voi, andare lì. Senti una cosa, scusa, ma tu che sei stato lì, sei partito e hanno fatto il test nucleare, ma tu ci credi a sta cosa del test nucleare, il terremoto, eccetera, no? Ma questo non credo. Ma come non credo? Cioè, hanno sentito il terremoto dappertutto, scusa, Anto. Sì, ma sono ragazzi, sai, si devono fare qualcosa, capito? Ma come sono ragazzi? Ma che vuol dire sono ragazzi? Io credo che lo vogliono isolare dal mondo. Io penso che bisogna trattare. Sì, vabbè, d'accordo. Io mi metto a disposizione di trattare con loro, che mi mandano a me. Ci penso mi... Ma scusa, ma sto maresciallo l'hai incontrato finalmente l'ultima adesso? Adesso l'ultima, che c'è stata la festa dei giovani, il nono congresso dei giovani, sì, allo stadio grande, più grande al mondo, c'erano 400.000 persone, sì, che c'era la fiaccolata, era sotto di me, mi sembrava tutto allegro, tutto che dimagrito molto. Come dimagrito? Come è diventato anche un bello guaglione, insomma. Ma adesso bello non mi pare, dai, Kim Jong-un, quello là ciccione con i capelli tutti strani. Sai, il tempo passa e magari uno ci tiene anche. Ma scusa, ma questi qua ce l'hanno il nucleare o no, questi qua, secondo te? Io questo non l'ho mai visto, però ha detto noi ce l'abbiamo. Ma non è che giocate e poi magari fate scoppiare la bomba, saltare in aria. Appunto. No, noi ce l'abbiamo per difendere i nostri cittadini. Noi non faremo mai la guerra. Ah, beh, allora siamo sicuri, David. Se attaccano, puoi stare tranquilla. Scusami, ma questo qua è un uomo di pace, questo maresciallo Kim Jong-un? Che cosa? Sicuramente. È un uomo di pace. Ama l'Occidente. Ama, ma non mi pare che... Ma come no? Ma quello là, scusa, fa gli esperimenti, ammazza i suoi oppositori solo perché si addorme. Ma tutte cazzate. Ma ragazzi, abbiamo incontrato noi, ma dico io, il nostro gruppo ci ha parlato, ma quando cazzo è morto? Ma non è vero niente. Vabbè, senti, parliamo di un'altra cosa, ma non sarebbe il caso, dopo il no alle Olimpiadi da parte dei 5 Stelle, che queste Olimpiadi si facessero in Abruzzo? Fai una bella proposta, le Olimpiadi in Abruzzo, portiamole. Ma guarda, sicuramente che a Pescara andrebbe benissimo. No. Cioè, farebbe un bel risultato a Pescara. Cioè, non ho capito, veramente tu pensi le Olimpiadi facciamole a Pescara a questo punto? Ma sì, i 5 Stelle sono giovani, e dei giovani come loro che non vogliono le Olimpiadi, mi sembra una cosa strana. Qui gatta ci cova, insomma, non va bene. No, ma ho capito, ma potrebbe essere una cosa molto... Cioè, le Olimpiadi portiamole in Abruzzo, sono vicine a Roma, o no? Sicuramente potrebbe fare a avvicinarsi alle altre regioni come il Molise e le Marche, e il centro qui a Pescara sarebbe la fine del mondo. Per concludere, caro David, mi sembra che Razzi sia uno di quelli che, come Sgarbi, il preservativo non l'ha mai usato in vita sua, da quello che so. Non lo so, ma che cos'è? Il condom, sai cos'è il condom? No, il conte, che è? Conte Tracchia? No, condom, il condom, sai cos'è il condom? Io lo conosco, io, Mr. Forestieri, io non lo so, non l'ho mai usato, io non so mai che cazzo significa. Cioè, tu non sai come si apre un preservativo, per esempio, Otto? No, e che cazzo l'hai mai fatto? Io l'hai fatto sempre al naturale. Ho capito, ma il preservativo, cioè un cappuccio che si mette intorno insomma, al pene per evitare problemi, malattie e cose del genere. Ma io non l'ho mai fatto e non lo farò mai. E l'AIDS? L'AIDS io non l'hai mai viata. Eh no, ma quello no, però è un problema. È per quello. quello, è per quello che adesso bisogna proteggersi con i preservativi. Ma tu adesso, manco sai come sono fatti questi preservativi? In fotografia, ma non lo so, non l'ho mai toccato. Mai toccati, mai aperti? No, mai. Ma Parenzi, questo è un esperto. Qualcuno se lo dovrebbe mettere anche in testa. Questo non credo. Cioè, te lo dico io, guarda, qualcuno se ce la mettesse in testa farebbe soltanto del bene a se stesso e agli altri. Cioè, tu pensi e proteggerebbe se stesso dalle stupidaggini che dice. Cioè, stai parlando di Razzi, questa è la realtà. No, ti assicuro, no, su lui. Sì, stai parlando di Razzi. No, te giuro, no, assolutamente, no. Stai parlando di Razzi. Lui è veramente puro, quindi non fa bene a non mettersi nessuna protezione, perché è una persona, è un puro. Vabbè, Anto, ciao. Saluti. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Luciani, ho appena visto su Facebook che c'è uno che fa i piercing ai gatti. Siamo al top. Cruciani, Parenzo, sono stato 2 anni in Vietnam. La carne di cane è buonissima! Altro che il lavandino. Io da piccolo la pipì la andavo a fare nel balcone, nel vaso. Il bagno era dall'altra parte della casa e non ci volevo andare, troppa strada. Bei tempi. Pasquale, Napoli, avanti tutta, vai Pasquale. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Io ti voglio un sacco di bene, però stai esagerando questa questione di Napoli, delle Olimpiadi. Ma ragazzi, ma l'ha detta De Magistris, non è che l'ho detto io. L'ha detto De Magistris, a me che me ne frega, non è che ha fatto la polemica, no, Napoli non deve avere le Olimpiadi, dai, ma su. Ma fai un discorso generale dell'Italia, che è il paese che... Ma l'ho detto, ma sono contrario anche quelle, anche alle Olimpiadi a Roma. Ma detto, la gara del Roma, non per il cazzo ogni 2 minuti lo stai stronzando. Ma quella è una battuta, su. Ma sì, ma è una battuta, da me che a me che sono napoletano, mi brucia. Va bene, dai. Su, il lancio della monnezza, dai, su, nuove discipline olimpiche, lancio della monnezza. Ci ammazzi, ci ammazzate tutti. Ci ammazzate. Fai un discorso generale che l'Italia non è pronta ad ospitare le Olimpiadi e siamo più di prima. Ma rompe il cazzo con Napoli ogni 2 minuti. Senti, Napoli, le Olimpiadi a Napoli le ha dette il tuo sindaco, non io, il tuo sindaco. È impossibile, sono d'accordo con te, ma è una cosa impossibile in Italia. Sì, in particolare. Perché non sarebbe altro che dare da mangiare ancora la malavita, perché gli appalti andrebbero a finire là. Quindi che cosa fai? Vai a fomentare quelle che sono le entrate della malavita. Allora per questo non si devono fare le Olimpiadi in Italia, perché questo è un paese estremamente corrotto. Vabbè, quello quindi... è un altro discorso, sono anche d'accordo con te. Non è un altro discorso, è questo. Fanno un discorso già. Per esempio, a Milano le Olimpiadi si potrebbero fare tranquillamente. Cioè a Milano le Olimpiadi io sarei d'accordo, per esempio, le Olimpiadi a Milano, perché no? A Roma non si possono fare. Ma perché a Milano? Amico mio, ma non c'è bisogno che te lo dico, su, dai. Dai, Pasquale, su. Dai, non c'è bisogno. Non c'è bisogno nemmeno di commentare, non c'è bisogno di commentare. Perché me le devi dare? Non si possono fare, non si possono fare, amico mio. Dai, su. Davide, proteggimi, aiutami. Non c'è, se no, sta sulla sedia. Non c'è, allora te lo faccio capire io, visto che Davide non c'è. Ascoltami bene, tutto ciò che si fa in Italia va tutto va tutto alla camorra, all'andrangheta, alla mafia. Poi c'è la competenza territoriale, no, la malavita c'ha la sua competenza territoriale, tu lo sai, è nato ieri. Allora, ascoltami bene, l'Expo a Milano, gli appalti, a chi sono andati? Me lo dici, tu lo sai. Beh, chi sono andati? All'inizio c'erano dei problemi, poi sono stati regolari. All'inizio, scusami, ma tu, allora mi spieghi un attimo una cosa, le Olimpiadi a Rio ti sono piaciute? Maria, è un'altra cosa, è un'altra questione. No, poi io comunque. Peggio di Napoli, Napoli, ma come fai a non capire? Beh, insomma, allora, è un po' diverso, dove c'è è un po' diverso. E Napoli è una città, io non sono povero, ringraziando il Signore, ma Napoli è una città che ha un substrato culturale nelle zone più brutte, nelle zone più veramente basse. Allora io su questo sono d'accordo con te, ma Napoli, Milano, Roma, non cambia un cazzo, non cambia un cazzo. Va bene, amico mio, ciao. Davide, Monza, vai, Davide. Salve. Dimmi, Davide. Io volevo parlare del fatto che avevo sentito prima delle prostitute, di queste cose qua. Dimmi, Davide, dai, forza. Sì, sì, io non ero d'accordo, perché io credo che la donna debba essere conquistata. Non andare da un posto e dire, vabbè, dai, tanto adesso me la dà, poi mi apre le gambe, lo metto lì, poi vado via, sono soddisfatto. Allora? Secondo me è un po' basso, è da deboli. Ma non ti va di andare a puttane? Perché devi contestare quelli che ci vanno? Non ho capito. Perché ho sentito che c'erano delle persone che si vantavano di questo. Io non è che si vantavano, sono andati tutti vanti di non fare. Altre persone invece non è che si vantano, dicono che vanno nei bordelli in Austria, in Svizzera, in Germania, eccetera, eccetera. Posti civili, civilissimi, posti civilissimi. Ma anche chiamare una prostituta, una escort per telefono, è una cosa civilissima. Farla venire a casa, farsi fare quello che uno deve fare, io non l'ho mai fatto. Ma insomma è una roba del genere, cioè è un dout des, è un mercato, non capisco qual è il punto, cioè, francamente non riesco a capirlo. Poi dice lo sfruttamento, a parte che lo sfruttamento c'è se ne occupa la polizia. Vabbè, ciao Davide, basta, mi sono pure rotto i coglioni di questo argomento, dai. Ragazzi, Red Ronnie non è solo, ci sono un sacco di associazioni animaliste che dicono di no all'uccisione dei pidocchi. Sentite, un padre chiama e dice: io sono contrario, mia figlia ha i pidocchi, ma io sono animalista e non li voglio uccidere. Sì, pronto? Sì, buonasera. Mi perdoni se disturbo. Associazione Difesa Animali? Sì. Guardi, io sono animalista convinto e sono anche vegano, quindi proprio nulla di derivazione animale, zero. Ecco, però mi trovo con un problema, una situazione che è un poco imbarazzante. In sostanza, mia figlia va in seconda elementare e si è presa i pidocchi. Dietro le orecchie, dietro la nuca. Sì, è normale, lo sento tutti gli anni. No, tanto normale no, almeno per me no. Però. Ma io lo sento sempre tutti gli anni, non so come mai. Mi hanno proposto, sa, tra farmacie, eccetera, eccetera, mi hanno proposto polveri, shampoo, antiparassitari e via. Però questi uccidono il pidocchio. E io non voglio ucciderli. Mi diceva qua una ragazza che è vegana. Aspetta che gliela passi. Sì, mi passi. Ecco, me la passi, grazie. Pronto. Sì, buonasera, mi perdoni. Buonasera. Non so, io quando ho questo genere di problemi, magari con gli insetti o roba così, faccio delle ricerche in internet e vedo cosa posso... Ma ho provato, Repellenti, più che repellenti... Voglio dire, io ho rispetto... Bisogna capire cosa dà fastidio al pidocchio e usare quella sostanza lì. Ecco, ma lei mi perdoni, perché c'è una diatriba con mia moglie, lei sostiene che sono un pazzo. No, io sono d'accordo con lei, io sono vegana e quello che insomma è... Cioè, non sono io ad essere pazzo, voglio può dire. Può eliminare senza uccidere, insomma, io sono d'accordo con lei. Pronto? Sì, buonasera, Associazione per i diritti animali? Sì, certo. Guardi, io le premetto che sono animalista e convinto vegano. Io non mangio nulla di derivazione animale, nulla. Ecco. Però mi trovo in una situazione imbarazzante. In sostanza, mia figlia, che va in seconda elementare, si è presa i pidocchi e francamente non riusciamo a liberarci. Mi hanno proposto polveri, shampoo, antiparassitari, di tutto, però questi uccidono il pidocchio. Ed io non voglio uccidere il pidocchio. Ma io sono d'accordo, perché guardi, io sono anche vegano da tanti anni e sono per un buon rapporto con anche con gli animali sinantropici come i pidocchi, i piccioni, i topi, eccetera. Bisogna cercare di ottenere una buona convivenza con la così. Bravo, lei mi capisce. Buona cosa, complimenti. Bravo, è uno dei pochi che sento fare questi ragionamenti sensati. Ragazzi, il mondo è pieno di matti, eh? Il mondo è pieno di matti. Maurizio Bossi, grande sessuologo, grande ritorno alla Zanzara. Maurizio, come stai? Bene, bentrovati tutti. Qual è il tema di questa sera? Velocemente, vai. Beh, caro Maurizio, il tema di questa sera l'abbiamo innescato noi dalle dichiarazioni del professore Simio Sgarbi, cioè che ha detto innanzitutto che lui non ha mai utilizzato il preservativo, mai utilizzato. Vabbè, quello sono cazzi suoi, no? Immagino che tu l'abbia usato invece, no? Da persona un po', come dire, navigata. Sempre, sempre. Ancorché monogamo, sempre. Cioè, ma in che senso? Con tua moglie usi il preservativo? No, non più, ovviamente, ormai sono troppo vecchio. Ah, beh, certo. Ma Sgarbi ha detto veramente questo. Ha detto che non ha mai usato il preservativo e ha detto, tra l'altro, che l'AIDS c'è più possibilità di prendersi le malattie insistendo sulla stessa donna piuttosto che fare, come ha detto, toccate figa, così ha detto. Ah, è una follia, è una follia. Senti. Mi pare che mi abbiano detto anche che c'era un problema sui gay. Che sì, lui riteneva... sì, adesso dopo l'affrontiamo. Ma toccate figa, come dice Sgarbi, toccate figa, è meno pericoloso di andare solo con una donna, no? No. Allora, Vittorione, ascoltaci, se sei in linea da qualche parte, Vittorio... Dai retta al professor Boss, ecco, rivolgiti a Sgarbi direttamente, vai. Oh, ok, poiché ci conosciamo, Vittorio, prendi la tua mano destra. Sì. Guarda la tua mano destra, quante dita hai? 5 dita, come tutti noi, vero? Sì, il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Adesso su ogni dito di Vittorio Sgarbi facciamo una cosa semplicissima. Mettiamo il fattore di rischio del singolo rapporto. Vediamo subito, sul pollice mettiamo il fattore di rischio del rapporto genito-anale. È un fattore di rischio alto. Secondo dito, genito-genitale. Fattore di rischio che riduce leggermente, ma c'è ancora. Terzo, oro genitale, dove orale è lei e lui è genitale. C'è ancora rischio, meno ancora. Quarto punto, oro genitale, dove orale è lui e genitale lei. Si riduce ancora il rischio, ma c'è ancora rischio. Quinto punto, quinto dito, siamo sul mignolo, vero Vittorio? L'hai visto il tuo mignolo? Bene, fai un coito interfemorale. Fai un coito in altra sede anatomica di quelle che abbiamo citato, ebbene, il rischio non è zero. Cioè, non ho capito, spiegami questo coito interfemorale però, scusami. Il coito interfemorale è un modo molto elegante, tecnico, perché la terminologia, esatto, come dice il Ministro della Pubblica Istruzione, è importante. In altra sede anatomica ci sono coloro che non amano la penetrazione, ma conflicano, bello quel conflicare, vero? Sì, bellissimo. L'organo genitale in altre sedi, esempio. Per esempio? Fra le cosce, esempio ascellare. E c'è il rischio anche lì, scusa. Ho detto che siamo sul quinto dito, vero? Esatto, sì. Quindi al minimo è quasi zero, ma non è zero. E perché non è zero il rischio lì? Di prendersi qualche malattia, qualche cosa, eccetera? Erosioni, ragade, piccole scoriazioni. Il rischio massimo, qual è il rischio massimo invece? Come l'hai definito? È sul pollice di Vittorio Sgarbi. Vittorio, è sul tuo pollice, è il genito anale. E non dirmi. Come si chiama genito anale? Cioè il genito anale. Genito anale. Cioè, come dire, il sesso anale. Il sesso anale è quello più pericoloso. Il genito anale più elegante, ma va bene così. No, il sesso genito anale, va bene, il sesso genito anale. Allora, Vittorio, ha ragione Vittorio quando dice che un eterosessuale non può prendersi l'AIDS. Lui dice, uno totalmente eterosessuale non è mai morto di AIDS. Anche questa è una follia, o no? Povero Vittorio, è bravo, ma si vede che la sua generazione non ha fatto educazione sessuale a scuola. Devo dire che non la fanno neanche oggi. No. Siamo a rischio, Vittorio, te l'ho già detto altre volte, sei a rischio, quindi hai già avuto l'infarto quest'anno, stai attento. Ha avuto culo secondo me fino adesso, se è vero quello che ha detto, cioè che è sempre andato senza preservativo con centinaia di donne, ha avuto solo culo. Certo. Secondo me, tra l'altro, qualche candida, qualche cosina se l'è presa. Questo non fa parte di noi, però è importante mettere questo messaggio. Perché? Perché proprio ieri, dopo che ho sentito Vittorio dire queste cose, sai che cosa ho fatto, Cruciani? Esatto. Ho telefonato al volo, sai a chi? A chi? A Andrologia di Pisa, una delle andrologie top d'Italia. Sì. E ho chiesto alla professoressa Bertozzi, senti, dimmi, ma quante persone arrivano da te? Da voi in ospedale con patologie le più varie, che sono prostatiti, infiammazioni, infertilità, impotenza, e tu scopri per caso che hanno una malattia di trasmissione sessuale, lo sai cos'è stata la risposta? Nell'ultimo anno 51%, che cosa sta dicendo? Cioè? Che su 100 persone che sono rivolte in ospedale, per le ragioni più varie, avevano male i testicoli, gli bruciava che so, hanno trovato una malattia misconosciuta a trasmissione sessuale. E qui vuol dire veramente che siamo all'anno zero, ragazzi, non vi rendete conto? Di più, ti dirò di più. Noi siamo dei grandi, noi siamo dei grandi testimonial del preservativo, diciamo la verità, caro, caro Maurizio, siamo dei grandi testimonial del preservativo. Dovremmo fare, dovremmo inventare una cosa con Sgarbi, ci dovrebbe ricredere, e dovrei farlo sponsorizzare dai più grandi produttori di preservativi, cioè un preservativo gigante accanto a Vittorio. Vabbè, ti saluto Maurizio, ci sentiamo la prossima settimana, ciao. Ciao. Io volevo rivolgermi alle signore. Dimmi, alle signore. Ragazze, state attenti perché i maschi sono impreparati, tocca a voi ragazze. In che senso? Preparateli voi. In che senso? Metteteglielo voi profilattico. Cacchio, l'ho detto anche a mia figlia. Ciao. Ah, pure a tua figlia gli hai detto? Cioè, mette il cappuccio. Cosa che gli hai detto? Fagli mettere il cappuccio. Vabbè, è giusto, è giusto. Però spesso sono anche le donne che non vogliono, amico mio. Beh, come no? Anche le donne. Oppure se vogliono mettertela facendosi mettere incinta. Ma quella è un'altra storia. Certo. Quella è un'altra trasmissione, vero? Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, Alberto, Verona, vai! Sì, salve Cruciani. Sì. Questa sera serata da PSO. Vai. E come? Redroni è roba patetica da PSO, Auriemma dopo. Comunque io telefono, a parte che i Rolex hai ragione tu, sono tutti fatti in trasferta quelli che avvengono qui a nord. C'è il sospetto, vai Alberto, dimmi. No, il sospetto, è successo proprio. Vabbè, allora? Erano trovati. Comunque ho telefonato perché sono rientrato e non vedo più Cecchi Pavone al TG4. Sì, l'amico Checca Pavone, lo dico in maniera scherzosa naturalmente perché veniva soprannominato così. Non lo so, credo che l'abbiano fatto fuori dalla conduzione. Cioè, credo che alla fine il Giordanone ce l'ha fatta a farlo. Credo che l'hanno fatto fuori perché i risultati non erano buoni. Come dire, i risultati non erano buoni. Beh, comunque io, a parte che ho fatto zapping, guardo un po' di tutto. Ma vabbè, ma perché cazzo ci frega noi adesso di Cecchi Pavone che è sparito dalle Rete 4? Mi dispiace che sia stato eliminato. Così. Ti dispiace per Cecchi Pavone? Vabbè, ma sti cazzi. Vincenzo da Padova, vai. Vincenzo. Sì, ciao. Dimmi. Niente, volevo dirti per quanto riguarda le Olimpiadi a Napoli, perché mai non potrebbero organizzarle a Napoli? No, cioè, amico Napoli... mio, dai, su Vincenzo, basta con questa storia. Mi sembra veramente di parlare di una cosa ovvia. Lo sai nel 2019 cosa fanno? Sì, le Universiadi, lo so, le Universiadi. Ok. E le università non sono. Beh, insomma, l'hanno fatto anche a Pescara. Le università. No, a Pescara hanno fatto i giochi del Mediterraneo. I giochi del Mediterraneo. Sì, l'università è un avvenimento. È un avvenimento importante, ma non è un grande avvenimento. Dai. Va bene, però è paragonabile alle Olimpiadi. Non è paragonabile. Non paragonabile, cioè nel senso che comunque tanti atleti vengono, 12.000, 13.000 atleti. Amico mio. Cioè sono state fatte a Seul l'ultima volta. Sì, amico mio, non si può fare. Mettiti l'anima in pace, non si può fare, tutto si può fare, tutto, per carità, non si possono fare, punto e basta, come a Roma non si possono fare, figuriamoci a Napoli, ma dico figuriamoci perché ci sono dei problemi tragici a Napoli, drammatici, tragici, non per Napoli, tragici, drammatici, molto prima delle Olimpiadi, non si può fare, dai, su. Cruciani, ma va suca! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.